fa domani me la dai. La tengo. In un barattolo lo metti, a domani me la porti. Salta. Però la qua si figura, lo dico la strada. Thank you. sono tu, sono io, capito? Questa è la notte di notte, e vanno sul posto e facciamo la mano da uno. Ma a casa tua, ma dove? 15 anni, non l'ho fatta, non so per pulirla. Allora, io io conosco la tua pelle, sono molto contagioso, figlio, senti, io ne ho. Mi piace fare gli accorgimenti, ogni parte che tu agganci, allora gli metto io un po' di grasso e poi uso il latte vulcanizzante, capito? In ogni raccordo, dove sono le vittime per il grasso, per lo, sì, beh, io ho mostrato da 15 anni era perfettamente le vittime, le vittime normalmente con il cacciavite, e di solito cacciavite quando appena uscito si spezza, allora bisogna il trappo. La scuola di pelle è un'altra da fonte, soprattutto lì dove ci sono un animale, ci dialoghi. La facile di andare è una cosa impressionante, la prima la vita. Io l'ho tolto, l'ho scesa giù dopo 15 anni, capito? Perché ho già cosa che ha per fare, allora l'ho scesa quella lì, perché poi devo agganciarci un dipolo lì. La un metro più giù l'antenna, ho preso il palo per estendere un dipolo per i 42 pataletti, e l'ho smontata, era perfettamente, tutte le parti, diciamo, di mestre, erano perfettamente integre, capito? Allora cosa ho fatto? Per la pasta abrasiva, col trattano, è una pulita, che ho tutta lucidata, è tornata come se la visita c'era la scarpa. Ecco, c'è qualcuno che la faccio, ecco, cioè ogni radiale, cioè quando di 10 cm, cioè, poi 8,5 la lunghezza del muro è quasi 4 metri, ogni radiale è lungo 5,50. Vabbè, anche a piccolina deve essere solo 27, e basta, ma non basta, ma quella come domanda con l'antenna, l'uso perfetta, è sempre quello che ho fatto, mi siete accorgimenti, capito, ogni metro, da più guardo un metro, una cruca, il gante, e quando l'ho montata per pulirla, dopo più di 6 anni la integra, no? E quanto è ben effettivo, si non ha vita. Ma 2004, ma dalla sera. Ma la faccia non si chiama, tutti gli altri apparati al campeggio, che ti fa a me. Modifica, è normale, perché più o meno sopportata, perché non lasciava la cosa personale, ma è portata a quello lì, a quella, non ha funzionato. Quando sono venuti, io ho fatto che ho parlato un pochino, perché non sono lasciato, perché non ho detto, ma a questo è il compito da fare, che ci sono in tutti, perché interessare, e un po' di tutti gli attirano delle nostre parti. Io in questa paese ce l'ho una trasportata, cioè, tu vicino a noi, in questa zona, ecco, sappiamo chi è, da Frugia, da Ragusa, su di una città della mia amica Felice Cunicina, che tu mi trasportate in questo mio canale, e noi trasportate la zona già per la sua casa, la frequenza. Sapevamo 10 frequenze proprio all'uso, capito di verde. Yeah. Cominciamo, dopo due minuti di vedere, non si vede più.